Smart City, la città intelligente. Si racconta che Cavallo Pazzo una volta fece notare a uno Yankee quanto i bianchi fossero spreconi. L'eroe della resistenza indiana, parliamo naturalmente degli indiani d'America, trovò infatti incomprensibile che ci si lavasse le mani unte, visto che il grasso era un ottimo balsamo per la pelle e quindi meglio spalmarselo anche sugli avambracci. Insomma, questo per dire che ciò che è rifiuto per qualcuno può per esempio diventare una risorsa per qualcun altro. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City, la città intelligente. Benvenuta anche a Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Grazie Maurizio, buonasera a tutti. Allora Chiara è qui con me non so quanto spontaneamente, perché insieme abbiamo deciso di dedicare 3 puntate ad alcune delle sostanze, diciamo così, meno apprezzate con cui abbiamo a che fare, che tuttavia produciamo in grande quantità. Possiamo dirle in maniera aulica: sarò il tuo Virgilio, ci sposteremo per le fangose acque. E allora continuiamo sull'aulico, facciamo una sorta di trilogia delle schifezze che ci insegna però come persino dalle materie meno nobili si possa ricavare qualcosa di utile. E siccome siamo gente metodica e organizzata, abbiamo anche stilato una classifica. Una sorta di classifica. Partiamo dalla prima posizione? Direi di sì. Allora, in prima posizione metterei pipì e pupù. E pupù, che decisamente guadagnano il primo posto. Al secondo invece abbiamo piazzato assorbenti, pannolini e pannoloni. Anche questo non è meraviglioso. Ma allora vediamo la parte più aulica, che è il terzo posto, che abbiamo dedicato invece alla raccolta dei rifiuti dell'umido, i rifiuti organici l'umido, di cui ci occupiamo stasera. Che è una cosa che uno dice, ma magari non fa tanto schifo, ma se la si lascia lì 4-5 giorni... Vediamo che un po' di schifo lo fa. Una certa soggezione, ecco. Tra l'altro parliamo di circa il 20% dei rifiuti solidi che noi produciamo ed è la parte anche più difficile da smaltire, perché anche quella un pochino più pericolosa e che dà anche qualche problemino in più di carattere sanitario, batteri, metano e quant'altro. Ecco, noi siamo abituati ad affrontare questo problema con la classica raccolta differenziata, dove esiste. Chi la fa? Ma c'è un'alternativa poco usata in Italia, che invece si sta diffondendo in molti paesi, soprattutto nel Nord Europa e negli Stati Uniti. Parliamo dei dissipatori alimentari e per parlarne c'è qui con noi Piero Rusconi, che è vicepresidente dell'associazione UIDA DR. Unione Imprese Difesa Ambiente Dissipatori Rifiuti Alimentari. Buonasera Rusconi. Buonasera a voi. Allora, cosa sono questi dissipatori? Sono dei tritarifiuti che tritano in una maniera molto particolare che noi chiamiamo selettiva. Cioè? È come se la macchina grattugiasse e allora un materiale che è fragile come il materiale organico si rompe in metallo, non subisce trattamenti e quindi gli inquinanti più tradizionali, che sono le plastiche e i metalli, non vengono trattati dalla macchina. Restano intatti. Una perché specie questo di frullatore. È una specie di frullatore, sì, che va sotto lo scarico del lavandino. Che viene posizionato, ecco, sotto lo scarico nel lavello, sotto la piletta, quel buco che c'è nei lavelli. Esatto, lì dentro si buttano i rifiuti organici, vengono triturati e spediti a questo punto nelle fognature. Sì. Ma quali sono i vantaggi rispetto alla raccolta differenziata di questo sistema? Ma noi normalmente diciamo che queste macchine consentono di rispettare 3 regole. La prima la regola della semplicità, cioè l'utente per fare una buona raccolta deve essere facilitato e averlo a disposizione nel lavello certamente è una semplicità. Il secondo aspetto lo noi chiamiamo la regola della prossimità, diciamo che la qualità della raccolta differenziata, qualunque sia la frazione di rifiuti di cui parliamo, più si è vicini al momento di produrre il rifiuto e con la raccolta, meglio si fa la raccolta e più la raccolta è selezionata, più si può riutilizzare il rifiuto, quindi non lo buttiamo via. La terza regola è quella del decoro ed è quello di avere un servizio attraverso questa macchina 24 ore al giorno contro le 2 volte alla settimana quando va bene. Ecco, ma qual è l'effetto di questo sovraccarico di sostanza organica sulla depurazione delle acque? Lo abbiamo chiesto a Cristina Macci, ricercatrice dell'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del CNR di Pisa. Sentiamo. Andremo senz'altro ad aumentare quello che è il carico organico che arriva al depuratore, il depuratore appunto delle acque reflui civili. Questo sicuramente comporterebbe la necessità di cambiare la gestione completa dell'impianto di depurazione, perché un carico maggiore comporta la necessità di aumentare l'ossigenazione del reflo, del liquame, per garantire appunto la depurazione delle acque stesse. Un aumento di ossigeno che prima tra tutti significa un aumento di una necessità maggiore di energia, quindi un incremento notevole di consumo energetico. Al di là di questo, diciamo che l'altro aspetto è che in questo processo tanta sostanza organica in arrivo significa sicuramente un incremento dei fanghi che si vengono a produrre durante il processo di depurazione delle acque. Questi fanghi che normalmente che sono comunque un rifiuto e che comunque devono essere trattati. Ecco, mi pare di capire insomma che bisogna valutare caso per caso se applicare questa metodologia o magari continuare con dei metodi tradizionali. Rusconi? Sì, assolutamente, sono d'accordo, nel senso che noi in Italia sono state fatte delle sperimentazioni, circa 7 nelle varie parti del territorio, dal Veneto alle Marche all'Emilia. Il problema è valutare poi quali sono i benefici di caso per caso da parte degli impianti. In generale questi benefici ci sono sempre, possono essere maggiori o minori in funzione dell'impianto a cui andiamo a conferire la sostanza organica trattata dal dissipatore. Tra i benefici ne possiamo elencare di due tipi, certamente su quelli indiretti, se noi questa sostanza invece di trasferirla con automezzi la trasferiamo con questa sorta di autostrade sotterranee, certo. Noi abbiamo un risparmio di emissione di gas serra nell'atmosfera. L'altro vantaggio può venire dalla non emissione di gas serra dalle discariche. Se il materiale organico viene buttato in discarica ci sono pesanti emissioni, soprattutto di metano, che è climalterante, metano, che invece qui voi... E noi lo possiamo recuperare negli impianti di depurazione, laddove sono dotati di questi che si chiamano digestori anaerobici. In Italia sono circa un po' più di un centinaio di impianti dotati, in Germania si parla di qualche migliaio di impianti dotati di digestori anaerobici. Va bene, grazie Rusconi. Grazie Rusconi. Grazie a voi. Noi ci fermiamo qui. Ciao Chiara, appuntamento domani per la seconda puntata della saga.